Oh, meno male che c'è Drio che sbaglia, perché grazie a Dio mi ha rimesso la mia sigla. Perché non ti piaceva la sigla nuova, dama? Ma io non lo so, stai, è già la seconda puntata, non capisco. Ma poi una delle scelte, ma un po' di brio, un po' sigla. Di brio almeno, se mi puoi far cambiare sigla. No, ma è una sigla epica, è una puntata incredibile questa, non ti sembra? Ah, è per l'epicità, non l'avevo capita. Certo, questa è la nuova sigla di Radio Contado, anche questa settimana rinnoviamo, capito, ristrutturiamo sempre tutto, non no, ti no, piaceva? No, vabbè, se ho capito rinnovare, ma con un certo stile. Vabbè, Carl Orff, Carmela Burani, cioè, è una cosa in pompa magna. La settimana Dici? Scorsa l'avevo scritta io la sigla, invece sto giro mi sono affidato ai grandi classici. Non ti piace? No, non mi piace. Allora torniamo con la vecchia. Va bene, grazie. Il problema vero, bentornate ascoltatrici, bentornati ascoltatori di Radio Contatto. Il problema vero è che le persone chiamate per fare i fonici si vogliono far tutto loro e vogliono fare anche, vogliono mettere bocca in quello che bisogna dire. No, è che se uno ha le cuffie non ti sente. Oh. Cioè forse gli devi picchiettare un po' dentro. Vuoi dire qualcosa? Sì, no, il problema principale è che sono arrivato 2 minuti dopo all'inizio della puntata. Ah, e quindi? Ah, quindi tu parlavi con qualcuno che non c'era, Mulo? Infatti, guarda, bentornate tutti. Questa è Radio Contado e spumeggiante, invidiata da tutti, da tutte, perché succedono queste cose un sacco punk. Ciononostante proviamo a essere contenti, felici, oggi siamo molto felici. Dama, oggi siamo felicissimi. Cioè, mi faceva cagare la scelta della sigla. Ah, parole durissime. Però devo dire che una cosa giusta l'hai detto, è veramente una puntata epica. Hai capito? Allora, cioè, c'è dell'epica fra di noi. Ciao Drio, bentornato a Frittole. Ciao. Allora, dama, tutto bene? Stai bene? Io sì, oggi c'è Drio, così non mi tocca sbagliare come un'altra volta. Sì, oggi è il 29 maggio, abbiamo fatto tardissimo, forse è la puntata che abbiamo iniziato più tardi in assoluto, perché c'era un compleanno a Frittole, quindi siamo bella sbazzata, mangiando la torta, eccetera. Sì. Quindi chiediamo scusa, però questa è, come si chiama, real life di Frittole, però bellissimo. Noi ci faremo perdonare perché è epica. Questa puntata. È epica da morire. 13.59 non è l'orario, ahimè, di inizio di questa trasmissione, ma sono quelle morbidissime frequenze di Mamma Wombat che, come al solito, abbracciamo e tutto quanto. Radio Contado, @insiberia.net per le numerosissime mail. Ma sto giro apri, perché sto giro me lo sento. Cioè, ci sono le sorprese. Riceveremo una mail. Sì. Me lo sento. Ce lo sentiamo, non l'abbiamo ancora aperta perché siamo appunto disastrosamente in ritardo. C'è il dottor Io in fonica che si fa i cazzi suoi ascoltandosi chissà cosa in quelle cuffie, ma sicuramente non ascolta noi. E fiori di ospiti, ma soprattutto rompiamo sto ghiaccio e si può rompere. Diciamolo. Dillo te. Direttamente dall'altra parte di questo globo terracqueo. Non c'è un brullo di tamburi. No. Possiamo farlo noi così. Diamo il bentornato a un personaggio che sconvolgerà il finale di stagione di Radio Contado. Al personaggio che, quando le feste sono belle diventano brutte perché arriva, quando sono brutte diventano belle perché arriva lui. Camisetta! Eccolo! Facciamo i grandi cantanti che allontanano il microfono quando urlano! Sennò scoppia tutto. È la prima volta che vi vedo di fronte, quindi mi sento un pesce fuor d'acqua, ma sempre di Frittole. Quindi sono contento, bellezza, perché sono al di qua dei monitor. Sono proprio contento di questo ritorno improvvisato. Cosa vuol dire? Non lo sapevate che tornavo dalla Bolivia in questi giorni? Chi lo sa, non lo sapevamo proprio. Abbiamo fatto 3 settimane di trasmettiva sudamericana. Fino a 2 minuti fa ci domandavamo, ma cosa tornerà mai fra noi? Sono tornato cambiata. Oh, sono camisetta. Camisetta, e vamo. Sai me, camisetta non sarai l'unica, come si chiama, testimonia di questa magnificente puntata. Abbiamo anche fiori di ospiti che arrivano direttamente dagli laboratoire Garnier dell'Aca. Voci sublimi, suavi e famosissime. Bloody Mary, la riconosciamo. Ciao. Ciao, io non ho le cuffie, quindi non sento niente come il fonico, però vabbè, ho fiducia. Però sei più che benvenuta e la fiducia è d'obbligo, ma io non sei sola. No, ma non te le diamo apposta le cuffie, perché è meglio se non senti. Ok, l'altro ospite ha un altro microfono. Sì, c'è un altro microfono ultra power che non si può sentire. È più bello il suo microfono. È molto più bello, perché arriva da un po' più lontano. Ciao Samba, benvenuto a Frittole Studios. Ciao, bellissimo sto microfono con su scritto non se può sentire. È bellissimo. Sì, sì, sì, solo roba buona. Viene da Roma, da una magnifica pasticceria dove prima o poi vi inviteremo, ma ahimè questa è pubblicità. Insomma, c'è un menù straricco, dama, ti piace questa puntata che sta prendendo corpo mi e piace, forma? Mi piace, poi c'è il pienone, è bello quando siamo circondati, siamo da un sacco di persone, siamo circondati. Sì, sì, sì. Circondati. Sotto assedio anche. Insomma, prima di lanciare il primo pezzaccio di oggi, tirandoci vagamente insieme, però annunciamo i temi. Abbiamo detto che abbiamo fatto intro e saluti, abbiamo dato le coordinate di tutto quanto. E in sostanza, oggi di cosa si parla? Oggi Soprattutto la prima mezz'ora cosa verrà dedicata? No, la prima mezz'ora, che sarà una mezz'ora abbondante, vediamo cosa salta fuori. Ci piacerebbe, ci sarebbe diverse cose di cui parlare. Partiamo da un appuntamento del fine settimana, che sarà l'Hack Meeting presso il CSA Next Emerson, giusto? Giusto. Che sarà questo fine settimana, come sottolinea il simpatico e comodo flyer che abbiamo qua in regia. E parleremo di nuovo di hacking, di hackers, di computer, ma non necessariamente computer. Proviamo a buttare giù sta barriera psicosociologica. Di nuovo, perché insomma, perché settimana scorsa, ricordalo ai nostri radioascoltatori e ai nostri ospiti che non c'erano settimana scorsa. Sì. Settimana scorsa avevamo avuto ospiti una bellissima coppia di artigiani che ne approfittiamo per risalutare, Raffa e Giorgio. E sostanzialmente l'artigiano abbiamo scoperto che è un hacker della campagna, o non necessariamente la campagna, dell'officina. Mulo ha deciso che anche l'artigiano è un hacker. No, veramente ha fatto Mulo, connessione, ma spiegala bene, perché mi piaceva. No, io non sono nessuno per spiegarla, perché c'è gente che ce la spiegherà ancora meglio. Detto questo è il primo pezzo di trasmissione. Il secondo pezzo, chiudiamo, o meglio, iniziamo a chiudere o a serrare questo cerchio di retrospettive sudamericane. Abbiamo detto, siamo stati 2 settimane fa in Brasile, settimana scorsa in Venezuela, e oggi finalmente, attraverso il nostro inviato speciale, che gli abbiamo pagato la vacanza apposta per andare là a fare l'inviato speciale, torneremo con un racconto boliviano magari. E da qui in poi, parentesi su parentesi su parentesi su parentesi, si può parlare per ore. Radio Contado, finché non diventerà una trasmissione di 8 ore, non sarà soddisfatta, forse. O forse no. Però invece di parlare adesso, sì, mandiamo un pezzaccio, dai. Che dici? Vai. Si dice più niente. By pressing down a special key, it plays a little melody. torna nell'onda morbida di Radio Wombat con... E fioccano le mail. Fioccano le mail, davvero. Ma proprio Dama, dobbiamo palate. Partiamo da questo, ne scegliamo una a caso? Vabbè, dai una. Ne scegliamo una a caso, guarda questa, eccola qua. Oh, oggi vi ascolto in diretta. Ah. Dice, belli, i nostri piselli non hanno nemmeno il fiore. Ora, quest'ultima frase ci fa riflettere, perché non solo la mail è targata giovedì, quindi tanto diretta non era sto ragazzo. E poi, voglio dire, noi leggiamo le mail, oggi non stiamo parlando di piselli, mi pare, Dama. Ma, o non quindi, ancora. O non ancora, non so, esatto. Non lo so i nostri ospiti se vogliono insomma, parlare di piselli o meno. E Bondana Nera, che salutiamo, perché comunque sia sotto i baffi... ha scritto una mail. No. Ciao, Dana Nera, apprezziamo l'impegno, ma la prossima volta un po' di più. Rimandato a settembre, quindi chiudiamo qua l'argomento mail stizziti e... Vabbè, aspettiamo. Sì. Abbiamo promesse di altre mail in arrivo. Scriveteci, Radio Contado, chiocciola in Siberia, con quante biera? Perché una. Forse una sola? Forse era quello. Anche forse... Nette con una sola. Anche Nette con una sola B, vabbè. Sì, chissà mai. Grandi. Avete sentito che musichettina molto... Come si può definire? Computerosa. Computerosa, digital, pezzaccio, scelto da... Scelta dalla nostra ospite Bloody Mary. Perché hai scelto non proprio fantasia, cioè non è che mi sono sforzata tantissimo, dai. Però era una cosa con computer, no? Con le macchine, i robottini, quelle quindi cose torniamo lì che piacciono allo stereotipo a del hacker. Certo. Oh, partiamo da questo. Ma noi siamo stereotipissimi proprio. Che bellezza quando uno stereotipo che è quello del contadino incontra uno stereotipo che è quello del hacker e vediamo infatti, cosa ne può saltare fuori nella infatti io adesso ho una, ora purtroppo non mi si vede, no? Però in radio. Ah. Però adesso io ho una tastiera davanti, voi avete delle zappe. Certo, certo, esatto. Ce le scambieremo e sarà un momento molto bello. Certo. Qualcuno che sta cercando di zappare la tastiera, sì. Ma abbiamo capito che questo non questo... va bene. Io faccio, posso fare quello che è. E comunque ci hai fatto notare anche un'altra cosa, che dopo quasi 6-7 mesi di rete, eccetera, abbiamo una versione del nostro programma di regia che è obsoleta. No, ora l'ho visto veramente. Però secondo me sì, però. Capito? Non puoi invitare un hacker o no, comunque no, uno che ci capisce le cose. Su... Ah. Cioè, io a domanda rispondo. Non che spettacolo, guarda. Ma come ti senti a Frittole? Sei già passata te in passato? Ah. Sono passati diversi mesi nel passato. Sì. Siamo cambiati tutte. E questa Frittole la riconosci? Ti piace? Sì, è molto bella, devo dire, avete arredato, vedo che ci sono delle novità, insomma c'è bacheca, c'è il guestbook. C'è il guestbook, poi c'è una lattina di birra che è di lì probabilmente da... È di cola, okay. È una lattina che è chiusa è ma non è mai stata aperta, okay. È bellissima. Ok, poi guarda lassù. Cavi, molti cavi guarda vedo, lassù. Questo mi piace. Contro luce. Cos'è quello? È un cero, santino. È un cero della Madonna. È un santino di Wombat. Bello. È un santino di Wombat. Quello non me lo ricordavo. Quello effetti. Non c'era. Poi c'è una scopa giustamente per pulire. Certo. Usata poco, perché ma c'è una finestra. Oddio, è vero, c'è una finestra. Prima non c'era la finestra. Prima non c'erano le finestre perché volevamo sentire i suoni della campagna, volevamo mandare in diretta gli uccellini, eccetera. Poi abbiamo sporconato come i dianini sull'autostrada quando c'è da fare le buche il 4 di agosto e abbiamo chiuso tutto. Ci siamo chiusi e ho detto fuck, fricchettoni. Anche perché di merda. È inverno da allora. Cioè, è inverno da allora. Quando sono venuta l'ultima volta è ancora inverno. Ma... Bene. Allora, decisamente, no, male, perché sennò con tutta questa pioggia ci allagava la regia. Sì, ma gli hacker bestemmiano quando continua a piovere, perché i contadini lo fanno in abbondanza. Oddio. Ah, no, hai sentito? Oh. No, le bestemmie sono il sale, direi, dell'hacking, no? Cioè, ah, sì, no, è impossibile senza. Ci sono fior fior di studi che attestano appunto quanto la pressione si abbassi quando bestemmi e quindi faccia bene alla salute. Che bellezza. Quindi è proprio una filosofia di vita, un po' come il contadino, siamo uguali. Sì, una terapia. Ad Hack Meeting ci sono stati molti talk sulle bestemmie, le mannaggia in realtà. Il mannaggiatore. Parliamo del mannaggiatore che subito li facciamo entrare nello spirito di Hack Meeting. C'era il mannaggiatore che praticamente prendeva ogni giorno della settimana, sceglieva il santo che era il santo di quel giorno e ci mannaggiava sopra. Ah, articolando. Il mannaggiatore non era un essere umano. Un'intelligenza artificiale che faceva questo. Alt. Grazie per la sottolineatura perché io non avrei mai immaginato. Poteva sembrare una persona che però non era tanto, cioè potrei essere anch'io in questo caso. Invece no, era... E invece no, perché l'imbarazzo sta nel fatto che ogni volta che ci si riferisce noi a qualcuno è qualcuno di molto analogico. Invece ogni volta che, non dico voi, perché non c'è un noi, un voi, però ecco, questo mega mini mondo si riferisce a un qualcun con l'asterisco, in realtà è un software a volte. Un'entità. Noi siamo fluidi, non è che potete sapere se siamo umani o macchine, okay. Insomma. Che bellezza. Rimane il mistero. Certo. Sì, e anche rompere questo concetto di, non so, essere umano e macchina e cyborg, mischiare un po' tutte queste cose insieme e non necessariamente attribuire l'esistenza solo a noi, ma anche un'intelligenza artificiale che, mannaggia, con la voce di Trenitalia, può essere bella. Ma ci date una mano a capire, ecco perché forse... Poi forse è l'unica cosa per cui può essere utile un'intelligenza artificiale, mannaggiare, secondo me, però questo è il mio punto di vista. Io ho già delle domande tecniche, però in realtà, facendoci un attimo più seri, è questo magari il compito di questa chiacchierata, aiutare a questi due mondi a compenetrarsi, o sicuramente quello che ci viviamo noi, a capire un po' meglio quest'altro, che c'è alieno, ogni tanto lo viviamo proprio come un sacco distante, perché, che ne so, davvero, per banalizzare, di computer uno non ci capisce niente, piuttosto che è prevenuto nel dire io non riuscirò mai a capirci niente di questa cosa, cioè, sembra molto complicato. Sì, a priori, e quindi uno si approccia già con una mentalità di colui, di colei che non riuscirà a cavarsela con le proprie mani, con la propria testa. E quindi... anche di delega, fai esattamente tanto io. E quindi voi che dite di questa nostra impressione? È giustificata, non è giustificata? È giustificata dal mondo reale che ci circonda, che spinge costantemente a questa impressione, per non dire che proprio la incoraggia e la obbliga a volte. In realtà quello che dicevate sul che sembra tutto molto complicato, sembra molto difficile, io potrei dire la stessa cosa su tante discipline, tante tecniche, per esempio, su cui voi ad esempio siete più ferrati, cioè, per esempio, se io dovessi parlare di apicoltura, boh, mi si incrocerebbero gli occhi e mi sembrerebbe una cosa difficilissima, complicatissima, così come tante altre cose. L'informatica e la tecnologia in generale è qualcosa su cui negli ultimi decenni si è deciso abbastanza a tavolino di investire, che doveva diventare qualcosa su cui lucrare, su cui speculare, su cui farne un dominio molto legato ai soldi, molto legato al capitalismo, ovviamente, e quindi per un meccanismo, secondo me, anche quasi religioso, si è spinto a credere che questo fosse un qualcosa, cioè che l'informatica fosse qualcosa di difficilissimo, dove solo certi espertoni potevano districarsi, che comunque tu ti ci approcci, sì, ma da consumatore, da profano. Consumatore è una parola chiave, secondo me, in questa certo. Chiacchierata. Eh sì, è sempre in punta di piedi, e comunque un po' in soggezione, sei sempre un po' sotto, con la testa sotto i vostri piedi. Esatto. E gli altri invece sono questi mega guru che quindi per questo è giusto pagare un sacco di soldi, è giusto che abbiano in mano le sorti del mondo, fondamentalmente, è giusto che devastino ettari e ettari di territori perché... devono costruire dei pezzettini di metallo e silicio e farci dei telefoni che tutti devono comprare. E insomma, d'altra parte, questa è un po' l'ideologia che poi è l'ideologia del progresso, che non è, insomma, slegata da tutto il resto del mondo che viviamo, perché le grandi opere, la devastazione ambientale, insomma, non è che c'è solo l'informatica e la tecnologia a foraggiare questa idea del mondo. Però, insomma, fa la sua parte abbondantemente e chiaramente in questo mega treno di progresso, dove davvero io ho proprio la sensazione sempre più che ci si debba approcciare come quasi una religione, no? Cioè, non bisogna farsi troppe domande, bisogna avere fede che siamo su questo treno che va a dritto verso un mondo meraviglioso, progressivo e, insomma, dove le cose andranno sempre meglio, l'umanità si affrancherà dal lavoro, perché poi... per molti decenni, insomma, l'informatica è stata venduta così, la robotica, l'informatica, cioè che era qualcosa per farti lavorare meno. Poi Cioè, questa cosa adesso ci fa ridere se non piangere, perché anzi generalmente ti fa lavorare molto di più, insomma, comunque ti fa lavorare peggio, male e tutto. Io tutti gli amici informatici che ho fanno le nottate in bianco, sono disperati, sono devastati. Eh certo, sì, ma perché è la forma lavoro che sta dietro al tutto, non è che la macchina di per sé risolve la questione, soprattutto se alle spalle c'è un discorso ideologico di questo tipo. Però vi ho fatto un pippone, vi ho ucciso. A noi innanzitutto piace. Un robottino che zappa la terra. Ma l'hanno già inventato, Dama. Cioè, solo no. Il problema suo è che va a gasolio. E stiamo sempre lì. No. Che pensa Greta? E torniamo lì. Adesso mettiamo sto santino di Greta qua, con le treccine bionde come ce le aveva Camicia prima che partisse per la Bolivia. Il muso proprio incazzato come... Insomma, io volevo chiedere se Samba avesse qualcosa da aggiungere, o perché di stimoli già ne sono arrivati parecchi. Mi sembrava giusto lasciare la parola anche a un minimo agli ospiti, sai. Io ci tengo a dire che appunto questo concetto del guru, dell'hacker o della persona mitologica che sa come fare le cose, forse è buono anche un po'... distruggerlo, questionarlo, perché non è sempre così, è più una persona che tipo ha imparato una lingua che tu non conosci e quindi magari sa scrivere con il codice e il codice è quella lingua nuova, o magari una persona curiosa che ha cercato su Google come si fa una certa cosa, non è così distante dalla conoscenza che magari hai tu. Però è semplicemente che quella persona prende, si sbatte e cerca di capire come fare certe cose. Sto concetto di hacker in quanto eroe o sciamano, tecno-sciamano o tecno-sciamana, insomma, non è sempre vero, è più che altro un'attitudine, una curiosità quella che porta alla fine una persona a far funzionare una cosa. Cioè, se mio nonno alla fine con uno spago mette a posto la lavatrice e me la scarica bene, è un hacker anche mio nonno, quindi insomma ci sta. Ci sta. Questo era annesso, grazie che hai tirato fuori proprio il centro della chiacchierata, che è stata fatta in maniera ingenua settimana scorsa, ingenua perché appunto capivamo già a partire appunto dal manifestino dell'ACMeeting, dalle poche parole che ci sono scritte lì, dove si andava a parare, per questo che vi abbiamo invitate qui oggi e insomma, che dite? Interrompiamo con un pezzaccio poi si riparte? Dai, un pochino di musica. Great. We'll be right back. canterino oggi, Mulo. Hai visto? Sono contento. Perché vi metto dei pezzoni io, capito? Uno. È vero, è vero. Sei stimolato oggi. Sono stimolato, si vede che c'ho proprio tutte queste energie che derivano dalla torta di cui si parlava all'inizio, che ci ha fatto far tardi, adesso un quarto d'ora e crollo, come al solito. Quando c'è la rassegna eventi inizio a sbiascicare, a dire le cose al contrario. Ma visto che sei carico, Mulo, cosa ci volevi dire? Vabbè, questa è una paraculata nel fuori onda, abbiamo continuato la nostra chiacchierata, dama. Non è che... qua è Radio Sincerità, potrebbe essere un grande fratello di noi altri. E io stavo dicendo di come la mia curiosità si risvegli in certi momenti, facendo magari questa trasmissione, mi aiuta molto a vivermi delle cose che altrimenti non riuscirei proprio a trovare le forze e energie di andare a esplorare nel mio quotidiano fuori da frittole, perché, ahimè, ce n'è abbastanza. Detto questo, ci sono state alcune parole che mi hanno solleticato sotto l'ascellina. La prima è stata quella di Samba, quando parlava di attitudine. Okay. La seconda, tornando a Bloody Mary, quando abbiamo parlato di utenti, consumatori, eccetera. Ecco, noi lo siamo, tutte quanti noi lo siamo consumatori, da che accendiamo la luce, a che facciamo benzina alla macchina, fino anche che compriamo l'insalata dalla grande distribuzione o dal contadino. Ora, lo sviluppare questa critica al consumo cieco, miope, questa roba qui va declinata in tutti gli ambiti. Noi siamo in campagna, lo facciamo sul cibo, lo facciamo con genuino clandestino, e abbiamo ammorbato in questa stagione di Radio Contado a parlare di queste cose. Però una cosa parallela si potrebbe tranquillamente dire del fenomeno del consumo, ora digitale, ora l'attitudine alla delega. E quindi volevo magari un commentino anche loro. Attitudine alla delega vuol dire che, si diceva, mi si spacca la macchina, automaticamente vado al meccanico, non ci provo nemmeno a metterci mani, perché nella mia cantina ormai magari non ci stanno nemmeno più gli attrezzi. Invece se vai nella cantina di mio padre e di mio nonno e via dicendo, guarda, trovi... c'era. Sì, no, il nesso era anche partire, vabbè, Hack Meeting, ora magari diciamo due cosette così. Tutto ciò che vuoi. Più che altro perché magari chi ci ascolta non c'è mai stato, quindi non ha idea tanto di come si conforma. Però effettivamente Hack Meeting è un qualcosa che è vero che ruota intorno ai computer, cioè non è che possiamo negarlo. Cioè effettivamente siamo un branco di nerd che amano stare davanti ai computer, e quindi sono tre giorni dove quando arriverete troverete un fracco di gente che sta davanti a un computer e a fare cose astruse. Poi ci saranno seminari e talk praticamente H24, dalla mattina alla sera in contemporanea su più sale, dove ognuno spiega qualcosa che ha imparato, che vuole condividere, generalmente non necessariamente cose particolarmente tecniche, cioè ci sono obiettivamente alcuni seminari sono molto tecnici, il livello su alcune cose è anche molto alto. Altre cose che non sono necessariamente tecniche per come le intendiamo, cioè magari sono più riflessioni su ciò che la tecnologia ha portato nella nostra vita, quindi riflessioni dal filosofico alla sociologia, all'antropologia, alla politica in generale, cioè quindi come siamo stati devastati e devastate dalla tecnologia, come questa ci ha cambiato, eccetera. E quindi in realtà ci sono oggettivamente molti momenti che ruotano intorno al computer, però quello che dicevate sull'attitudine è il nodo centrale, per cui effettivamente... Ma lo dicevate voi, Vabbè, però poi voi l'avete raccolto. Voi no, odio. È stato raccolto. Perché effettivamente l'attitudine è un po' quello che sta alla base del tutto e che fa sì che poi dentro Hack Meeting e fuori da Hack Meeting, ma insomma nella galassia che circonda Hack Meeting, che compone Hack Meeting, si parli di vari argomenti e si spazi da una cosa all'altra, perché quello che succede è avere un'attitudine, l'hacker, questo direi dalla nascita dell'hacking, questo proprio è la base, avere un'attitudine di curiosità che porta a guardare la realtà con una voglia di aprire e smontare le cose per vedere come sono fatte dentro. Quindi non prendere la realtà come ci viene spiattellata e come dogma già prestabilito, ma no, c'è una sorta di sfiducia da un lato, cioè, ma non per complottismo, semplicemente per voglia di verificare, magari, di guardare, di anche di toccare con mano. Per cui generalmente tutto quello che ci arriva sotto il naso tendiamo a aprirlo, smontarlo, rimontarlo, magari al contrario per farci qualcos'altro, e ripararlo se ci sembra che non funzioni come dovrebbe, eccetera. Questa attitudine è un'attitudine che secondo me suonerà familiare in realtà a voi che siete qua, ma anche a quelli che ci ascoltano in radio, perché in realtà è un'attitudine che viene condivisa da tanti progetti, da tante realtà che non necessariamente si definiscono hacker, però di fatto in qualche modo si potrebbe dire che lo sono, perché questa è la cosa che sta alla base dell'hacking. Poi l'hacking si può applicare a tantissime cose, a tantissimi argomenti, per cui effettivamente se te lo applichi in senso stretto al computer, a prendere un codice, smontarlo e riguardarlo e rimaneggiarlo, sì, ok, quello è hacking in senso stretto, quindi l'abbiamo applicato a un codice, all'informatica. Però, come dicevate prima, se io ho la macchina e non la voglio portare dal meccanico, non ho i soldi per portarla al meccanico, o anche semplicemente mi piace, mi diverto a capire come funziona e mi diverto a ripararmela, anche quello è hacking, ma proprio tranquillamente. O gli artigiani a cui facevi riferimento a inizio puntata, sono persone che hanno in qualche modo preso una tecnica, l'hanno capita, se la sono studiata, perché è vero che c'è dietro uno studio l'hacking, non si può negare, nel senso che questa curiosità ti porta anche a studiare, a conoscere, a comprendere un argomento. Quindi poi anche un artigiano è qualcuno che comunque se l'è studiata quella tecnica. Poi però magari l'artigiano più interessante, più bravo, più così, anche dal mio punto di vista perlomeno, un artigiano che mi piace di più è quello che non prende e fa cose tutte uguali, ma che... che cambia ogni volta. Sì, o che prende uno stampino che ha comprato su Amazon e lo riproduce. Cioè un artigiano che a me piace è quello che comunque impara quella tecnica e magari poi ci fa cose diverse, si fa prendere dalla fantasia e dall'estro e ci inventa cose nuove. Ma quindi, ad esempio, per partecipare a questo hack meeting, cioè, basta avere curiosità o sono richieste delle doti particolari, no, una conoscenza di base, una formazione? No, la curiosità è l'unica vera dote. E poi anche un'attitudine all'autogestione notevole. L'hack meeting di quest'anno, tra l'altro, un po' sotto traccia, viene sempre lanciato un tema ogni anno. Hack meeting è un festival, un evento. È anche un festival, eh? Sì, in qualche modo. Che accade tutti gli anni e ogni anno in una città diversa d'Italia. Ci sono anche altri hack meeting fuori dall'Italia, ovviamente, in altre città europee e non, ci sono altri eventi di questo tipo. Quello in Italia gira sempre in posti tendenzialmente occupati o comunque autogestiti, ovviamente per scelta, e il tema di quest'anno un pochino è l'autogestione, cioè quello che abbiamo scelto quest'anno. Altre volte sono stati dati dei che poi non sono veri e propri temi a cui attenersi rigidamente, sono uno sfondo. Sì, che la comunità che ospita l'hack meeting un po' si sente di lanciare. Qui a Firenze, l'Hack Club di Firenze, IFDU, si è sentito di lanciare un po' questo tema, perché poi quando è stato deciso di fare Hack Meeting a Firenze quest'anno ha coinciso con una serie di minacce, di sgomberi, di momenti molto anche critici per le varie occupazioni, per i vari spazi occupati a Firenze, non solo a Firenze oltretutto, e quindi ci siamo sentiti di sottolineare che l'hacker in qualche modo ha un'attitudine all'autogestione che poi va di pari passo con quella alla curiosità di cui si parlava, certo, prima. Quindi effettivamente queste sono le cose che uno gli viene richiesto di avere quando entra ad Hack Meeting. Se tu ti avvicini a Hack Meeting pensando ok, ora vado lì e mi spiegano le cose, io non devo fare niente, e come può succedere ad esempio a delle conferenze invece dove te di informatiche magari di alto livello, dove te vai, paghi e ti viene data la cartellina, il pass, tutto. Sei un po' passivo. Sei passivo, sei di nuovo consumatore, sì, come si diceva prima, E ecco, a Meeting questa cosa non succede, ti viene chiesto di pulire cessi con noi, ti viene chiesto di dare una mano in cucina, di pelare le verdure insieme a noi. Mentre ascolti un talk. Mentre ascolti un talk, sì, metteremo dei tavoli per pulire le verdure dove ci sono i talk, in modo che chi bellezza. Può dare una mano. Forse la radio è nata così. Pulendo le patate? No, con questi... Perché io immagino che comunque Radio Wombat non è che sia proprio, proprio assente in tutta questa baracca, Che no, dice? Radio Wombat in effetti forse dovevamo dirlo. No, vabbè, l'abbiamo detto. Vabbè, era così la sorpresa finale. Sì. Amici. No, la sorpresa finale è che Hack Meeting in realtà sì, Hack Meeting, Radio Wombat, ormai ho il mio cervello è assorbito. Forse che ne fai troppe. No, infatti. Ti sembra? No. No, Radio Wombat in realtà si trasferirà la propria regia temporaneamente al Next Emerson ad Hack Meeting. Per documentare quello che sta succedendo. Non faremo la diretta dei seminari, dei talk, perché è follia. A parte che vanno in contemporanea 4 ore su 24. Tocca aprire due Radio Wombat. Poi non è neanche troppo interessante effettivamente sentir solo in radio. Però li registreremo tutti in modo che poi siano disponibili per chi... chi se li è persi e li vuole sentire, e poi faremo interviste, approfondimenti in radio, un po' come le dirette che vengono fatte spesso in altre occasioni, anche sì. Al Festival della Letteratura in Polveriera. Bellissimo, tra l'altro, invitiamo tutti a riascoltare, perché è un lavoro preziosissimo, fatto di un bene, che è proprio bravi. Comunque, insomma, Radio Wombat ci sarà anche qui. Ci sarà e come... E tra l'altro ci sarà anche un talk ad Hack Meeting che mi sento di lanciare in particolare, che è più che un talk è una discussione, una chiacchierata un po' condivisa tra alcune trasmissioni che ci sono in varie radio sparse per l'Italia, trasmissioni a sfondo acaro per l'appunto. Oh, che casualità! E quindi abbiamo la nostra indigena Coccoli al Silicio di Radio Wombat. Poi ci sarà Stacca Stacca di Radio Blackout, Le Dita nella Presa di Radio Onda Rossa, Radio Fugico, insomma. Niente! Radio Neanderthal, giusto. Questa è la Champions League della radio, capito? C'è Roma, Firenze, Dama. Non si gioca con l'elastico. Stanno facendo come i bambini. Si guarda, il pane. Ma che carini, hai visto? Si sono mancati troppo. Mo si lanciano gli elastici. Mo ci becca nell'occhio a tutti. Sì, ora moriamo. Camisetta. Ma davvero, hai messo le 15:31 Bloody Mary. Sappiamo, infatti, io vi devo abbandonare. Il nostro cuore piange. Sì, in tuo onore lanciamo un altro pezzaccino e poi. Sì, io vi saluto, ma vi lascio in buone mani. Sì, lo teniamo qua. Altri acari, lo mettiamo di nuovo a suo agio adesso e insomma, grazie mille per il tuo passaggio, è sempre bello e prezioso. Grazie a voi, e passate ad Hack Meeting, così ci rivediamo e mi troverete appesa su una scala probabilmente per fare cose. Ma insomma... Ah, infatti per fare cose, se no pensavo si impicca perché è finita. Quella è un'altra possibilità. Quella è un'altra possibilità, ma spero di no, insomma, poi è anche bello, è faticoso, ma è bello. Beh, bello sì, grazie davvero del tuo passaggio e soprattutto non mancheremo di ribadire nella rassegna eventi, insomma, quant'altro. Mo, se il dottor Io mi degna la sua attenzione, potrebbe spigiare play? No, mamma mia, ma sei proprio... sei peggiorato tantissimo, dottor Io, cosa ti distrai così tanto? Infatti io lo insulto in diretta. Ojos traicioneros que nos sigan engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío fácilmente no se encuentra. Si se encuentra, caro cuesta todo duro. fuera de la vida. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra. Si se encuentra, caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me la estás haciendo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, si esta muchacha me quiere. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. Ce-i cu purcăria asta, mă? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Poate nu știați, dar acum, orice timp de vreme, puteți asculta, chiar dacă sunteți mici, însurați sau bunici, cele mai bune transmisii și cea mai marfă muzică pe Radio Wombat! Schimbați canalul! E sub raspi la izvoră, la la la la la. Este la stele caidora, la la la la la la. Tutto questo per far sentire uno spottino al nostro amico Samba. Sì, bellissimo. È bellissimo. E tra l'altro fatto da un rumeno torinese, da un torinese rumeno. Ho capito solo Radio Wombat. Esatto. quello era l'intento dello spottino, che si capisse proprio il contenuto chiaramente. Poi noi non lo sappiamo se ci sta insultando, che non cosa sappiamo, sta, non sappiamo nulla, non sappiamo niente, si sente Radio Wombat. Tutti i nostri va bene. Spottini sono fatti così, li collezioniamo appunto in lingue, perché Radio Wombat e Radio Contado, ecco, volano nel mondo attorno a noi. E siamo tornati in diretta, sono le 15.36 e con Samba volevamo, cioè abbiamo scoperto un'ulteriore affinità di approccio, di pensiero critico eccetera, però abbiamo scoperto che anche ti piace trasmettere su morbidissime onde, su frequenze che per noi sono vicine, magari dal punto di vista dei contenuti eccetera, però non le conosciamo. E quindi abbiamo scoperto che c'è un ulteriore conduttore radio in questo studio di Frittole. Oggi siamo davvero fra di noi, siamo il vero, esatto, le onde non sono così morbide come quelle di Wombat, magari sono più seghettose, però a Radio Blackout abbiamo onde quadre, abbiamo onde un ospite di Radio Blackout. Hai capito perché stiamo a mettere Carmina Burana? Cioè stiamo in Serie A, capito? Stiamo a lisciare il pelo. Abbiamo un ospite che importante, contano davvero, però mi dovevi avvisare, io ero ignara. Ma sì, ma chiaro, perché le sorprese sono queste, no? Sono, capitano così, all'improvviso in casa ti si arriva gente che fa altre cose e dici oddio, che bello, quindi capitano anche sì, personaggi strani. E noi si fa anche un po' di radio su critica alle tecnologie, abbiamo una trasmissione che si chiama Stacca Stacca, che è stata citata poco fa da Bloody Mary, tra l'altro. Sì, esatto, il venerdì infatti ad Hack Meeting, venerdì pomeriggio dopo pranzo, ci sarà una bella discussione tra tutte queste varie radio che parlano di tecnologia qua in Italia, per capire un po' anche tipo è utile, cosa stiamo facendo, qualcuno ci ascolta, vi sono capitati dei merdoni, di cosa parlate voi quando fate radio? È utile anche confrontarsi e riuscire a capire utilissimo, utilissimo, in che direzione andare magari. Vedi, stanno a fare le stesse cose che facciamo noi, solo che lo fanno su Blackout, e che non per dire Wombat, vogliamo andare anche noi su Blackout, è per dire che i percorsi sono quelli. Attenzione. È successa una cosa, posso prendere la parola? Ma chiaro che sì! No! Finalmente! È la prima domanda dopo mesi. Wow. Attenzione, Sambas, devi stare molto attento perché è la prima domanda dopo mesi. Mi mancavano i picchi di audio. Ha fatto una cosa e fa della roba blackout che è incredibile. L'ultima volta che l'ho pensato, non era tanto tempo fa, perché durante la, lo sgombero, c'è stato lo sgombero dell'asilo, e sì, c'è stata una diretta, ragazzi, di non so quante ore di blackout, della diretta dello sgombero e tutto, e lì ho detto, ecco, è lì veramente che una radio riesce a entrare nel territorio, una radio riesce a diffondere quello che nessun altro mezzo riesce a diffondere, cioè la resistenza delle persone, no? Mi ricordo che addirittura mandavano i brani musicali a richiesta delle persone che venivano sgomberate, e i vicini avevano mandato, sì, con le casse a tutto volume. Quindi c'è stato, no? L'etere è diventato un elemento di unione anziché di separazione, sì, come, sì, lo è, infatti, come sembra che lo sia, ma ovviamente non è. Infatti il 9 marzo, complimenti, volevo approfittarne stato... per... Quando c'è stato lo sgombero è stato davvero pesante. Io mi ricordo che stavo camminando in giro cercando il corteo con la radiolina nel telefono, attaccata solo da un lato dell'orecchio per ascoltare dove la radio mi diceva dove era il corteo, perché io non riuscivo a capirlo, giravo per Torino così a casaccio. E quindi la radio è molto utile in quello. Se la radio riesce a essere lì in diretta sul pezzo, su cosa sta succedendo, diventa uno strumento politico molto importante, quindi la comunicazione in ogni caso passa anche attraverso queste onde morbide, triangolari, penetranti. Penetranti. Ti ripasso la parola, Mulo. No, non c'era, cioè, a me emozionava anche solo il fatto di condividere questa esperienza da una persona che, per esempio, come ci ha confessato prima, non riesce a stare dall'altro lato dello schermo. Quindi questa cosa qua è divertente, perché sta qua con noi in regia e puoi anche smanettare, anzi, sicuramente più abile di noi. La tua trasmissione, la vostra, sì, trasmissione, immagino, quanto somiglia a questa qua dove ti sei imbattuto oggi? Beh, noi siamo molto più caotici e facciamo diverse cosine. Facciamo... una piccola parte che è la posta del cuore dell'internet. Che bellezza, anche noi la volevamo fare, la posta del cuore. Tiriamo fuori tipo qualche news, qualche storiaccia o qualche leak, insomma cose strane che sono successe. Generalmente cose anche che fanno ridere, che ne so, un tizio su TripAdvisor che ha creato un ristorante che non esiste, è arrivato con le prime referenze in UK e poi quando aveva tantissime stelline ha deciso di aprire il ristorante solo per una sera nel suo giardino di casa. Che bellezza. Quindi queste cosine che fanno anche un po' scassare, ti fanno capire anche un po' come la tecnologia c'è, ma ci puoi giocare intorno a queste cose. E poi facciamo un approfondimento più o meno di un'oretta, dove a volte sono storie, che ne so, che sta succedendo ad Assange in questo periodo, oppure insomma gli innumerevoli barbatrucchi che Facebook fa per rubarti tutte le informazioni che può rubarti. Che bellezza, ma ci sarebbe da parlare per diverso tempo. Sì, sì, infatti ci siamo rotti di parlare di Facebook e non ne parliamo più. Allora andremo a ascoltare i podcast, magari facciamo un bel link alla vostra trasmissione sul nostro podcast quest'oggi. Che dite, ragazzi? Ma assolutamente. Podcast. Ma tra l'altro, nella preparazione di questo invito, di questa chiacchierata in diretta, ci hai confidato che avete citato anche i nostri amici di Mondeggi. Sì, esatto. Lunedì abbiamo parlato di Mondeggi perché stavamo giusto parlando dell'hack meeting che c'è a Firenze e poi ci siamo spostati anche, sai, noi ci si allarga e parliamo anche delle varie realtà che ci sono. Abbiamo parlato anche di Mondeggi, abbiamo parlato di Campi Aperti, abbiamo parlato di, insomma, quando iniziamo a parlare è facile scivolare anche su altri temi a noi che a noi stanno a cuore. Strano, strano, perché di solito quadrati noi non scivoliamo mai. Noi facciamo un sacco di scivoloni invece, ci piace scivolare e pattinare su vari argomenti. Come tipo Hack Meeting, che appunto adesso arriverà e ci saranno un sacco di cose diverse. Ci saranno la cosa più bella per me è che rivedo gente di tutta Italia, dei vari hack club che ci sono, li rivedo e rivedo queste persone e giochiamo insieme a fare cose. Tipo qualcuno porterà i telefoni quest'anno, si è preso bene con i telefoni, quelli vecchi, sai, quelli che giravi così, la cornetta, e quindi ci sarà una cornetta ad ogni tavolo e ci si farà gli scherzi telefonici probabilmente. Che bellezza. A Lido di Camaiore o a Viareggio il il telefono, il phone café si chiamava, dove andavi, sì, ti bevi, prendevi da bere, ogni tavolo c'aveva il telefono, te telefonavi al tavolo, era una serata di imbrocco fondamentalmente, però che imbrocco a caga sotto, perché poi non ti palesavi, dicevi ah, mi piaci, vuoi bere con me, e poi attaccavi. E poi attaccavi, no, esatto. Io ho partecipato a questi eventi dove c'erano tipo, ti davano una sim, avevi un numero di, che ne so, tre cifre, e tu te lo attaccavi qua con un identificativo, qualcuno ti mandava un sms ma non sapevi chi era un altro numero, e magari flirtava con te o ti scriveva qualcosa di interessante e tu dicevi ma chi sarà questa persona, quindi giravi la sera cercando sto numero a tre cifre. Ora c'è direttamente la black room, no, così direttamente no, ma non noi, sai, noi non si è nerd che... e ci piace illuderci che magari la persona che ci ha mandato con lo smiley, quel bacino, è lì intorno a noi. Sì, ma cioè, noi siamo nerd, però tu non sei nerd, non sembri nerd. Che mai. Cos'è nerd? Com'è? Che cos'è? È un'estetica, è qualcosa, invece i capelli lunghi, biondi, gli occhi chiari. Ma cioè come te lo immagini un nerd? Un po' chiuso, un po' con i denti che escono. Un po' topo. Un po' topo, un po' con gli occhiali montatura. Lanzulla, tipo? È una sorta del genere, però lui già è molto pop, è troppo pop. C'è la camicia, no. Sì. Se c'è la camicia è giovane, nera. Lanzulla. Sono pop. No, lui a Ranzulla. Poi te, non possiamo diffondere la diretta Facebook di questa trasmissione perché purtroppo non ci va, come si chiama, la telecamera del computer, perché sennò ci trovereste in diretta. Guarda, il nerd, tutta questa estetica o senso di estetica su come è l'hacker, come il nerd, è una roba che è recente, sta arrivando, perché appunto sembra quasi che in base a come ti vesti allora è come ragioni, ma bravo, non è proprio così. In realtà ci sono un sacco di persone diverse nerd. Poi è chiaro che tendenzialmente il nerd va sul nero, perché se si sporca puoi anche non lavarlo. Oh, pigro. È pigro tendenzialmente il nerd. E boh, occhialoni ci può stare, perché stai un sacco di ore davanti al computer, però puoi anche trovare gente che non ha occhiali e vede benissimo. La maggior parte delle persone che poi sono nerd non fanno solo informatica, anzi conosco un sacco di persone che zappano, che gli piace stare in montagna, che scalano, insomma. Infatti, buttiamolo giù. Varietà, meno male. Sì. Vabbè, ma se uno è incuriosito potrà avere un'ampia vasta da osservare questo fine settimana. Sembra che vai al concessionario, però sì, è vero. Vabbè, se uno è curioso, ma ci avrete la targhetta con cui provarci con voi, con il vostro seriale, tipo 001 devi avvicinarti al cellulare e fare Hack Meeting QR è difficilmente code. Un posto dove si può baccagliare, come si dice a Torino. Ecco, allora dissuadiamo tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori ad andare, come già Buon Camicia stava facendo, per andare a pasturare, o perché gli si è rotta la tazza del sciaccone, si era lo sciaccone, sì, devo facciamo un laboratorio nel tuo bagno, perché c'è gente che magari è nerd, perché si mette il giorno che piove e sistema i bagni e quindi ribalta il bagno. Siete tutti invitati nel mio bagno. Che bellezza, che bellezza incredibile. Ma a questo punto vogliamo dare un appuntamento vero e proprio a chi è interessato all'Hack Meeting? Perché non certamente. È che abbiamo detto. Non l'abbiamo ancora detto perché c'è la segna degli eventi a fine trasmissione. Però, vabbè, però come recita il nostro adesso https://hackmeeting.org. Adesso la dama vi fa lo spelling, perché è di inglese. hackmeeting.org. Dopodiché qui trovate tutto e il contrario di tutto, come dice il comodo manifestino: dal 30 maggio al 2 giugno 2019 Firenze, Next Emerson. Volete pure la via? Via di Bellagio, esatto. Civico 15 mi pare. Civico non lo so, via di Bellagio 15. Anche lui è nerd a modo suo, lo sappiamo. Beh, è molto nerd. È vero, anche nell'estetica, però davvero oggi ho messo lenti a contatto. Manca l'occhialone. Sì, che poi nerd è quello sfigato, il secchione, è partito così il concetto a livello proprio etimologico, si ruba dagli Stati Uniti questo concetto di nerd. Poi c'era qualcuno che diceva no, io non sono nerd, io non mi raffiguro in questo preconcetto del nerd, e allora nasce il geek. il geek che sarebbe attenzione, quello il scoop, no, no, questo è uno scoop geek, avete mai scritto geek? G-E-E-K come il gecko, il gecko, il geek sono quelli un po' più appassionati di videogames o anime giapponesi, non necessariamente fanno codice, no, possono essere sì, anche fanno anche cosplay magari, sì, ricorda un po' la descrizione di Drio. Con quei suoi pantacollant azzurri, oggi mi ricorda Sailor Moon. Finalmente ho trovato qualcosa in cui riconoscermi, esatto, e descrivermi l'appartenenza di Drio. Attenzione, ho trovato la mia famiglia. Attenzione, sì, sì. I nomi poi esplodono, cioè se vai in Giappone ci sono gli otaku che sono appunto super appassionati di tutti i tipi di manga, anime, che poi è diverso, il manga è scritto, i disegnini, i comics, invece anime è il cartone animato, quello che ci è arrivato anche a noi con Dragon Ball e queste cose qua. Quindi insomma ci sono vari tipi di nerd che possono esserci per vari tipi di ramificazioni, c'è quello che si prende bene solo per fare le cose con la radio, quella che si prende bene solo per fare codice di un certo tipo sul web, la persona che vuole fare solo design, sedie, chi vuole zappare, chi vuole, vuole solo tagliare il legno, tutti questi tipi di nerd. Sì, sì, le fissazioni, sì, esatto. Alla fine, dai, questo fine settimana a Mondeggi ci sarà un po' di tutto, insomma, troverete tutti i nerd e le nerd possibili esistenti nel mondo. È successa una cosa incredibile, Camicia, è arrivata una mail per Samba. In vera diretta per Samba, ci credo che Samba un sembra nerd, un fricchettone scritto con la K, firmato da questo tal Snorky che salutiamo. Ciao Snorky, vuoi dirgli qualcosa? Mo se ne andiamo pure, vi lasciamo la radio. Un bacione perché ci conosciamo chiaramente, siamo due fricchettoni. Vedi, ma fricchettone e merda, vai. Comunque dobbiamo invitarli più spesso perché così ravvivano la nostra mail, noi non ci scrive più nessuno. Dai, quindi è un nuovo termine, freak nerd o nerdettoni, bisogna trovare un'altra... Nerdettoni. Con la... Dove metto la K in nerdettone? Io voglio la K. Merkdettone. Va bene, davvero. Grazie. È stato piacevolissimo e come al solito inaspettato. Vuoi firmare la bacheca degli ospiti? Ma certo. Via? Guarda, questo è simpatico e indelebile, fai ciò che vuoi. Con questi momenti... Mentre loro firmano... Firmano e si baciano, magari, si amano, riconosciuti. Si amano e fanno i fricchettoni. Fricchettone. Mandiamo un pezzo. Un po' meno fricchettone, mi sa. Facci godere, facci godere. Se vuole in metallo... We'll be right back. altro. Questa è tutta dedicata a te, camisetta. Grazie, questo è uno dei pezzi più belli che abbia incontrato nella rete. Abbiamo incontrato nella rete. Roost Death Metal Rooster, andate a cercatelo, scaricatelo, riproducetelo. Riproduciamoci. Insomma, siamo a tu per tu adesso. Siamo a noi per noi. Ecco, cioè, adesso siamo andati via tutti gli ospiti. Cioè, posso tutti petare qui dietro. Vuoi sentirti a tuo agio? E anche siamo proprio. Siamo tornati in famiglia, ma in una posizione strana, tipo da interrogazione. Tipo. Sì, mi sento all'esame. Noi tre davanti e tu, camisetta. Allora, ci parli di Manzoni, la colonna infame. Non i Promessi Sposi, come sicuramente lei avrà. Ero preparatissimo sui Promessi Sposi. Ciao, come stai? Ciao Camicia, ciao, bentornata. Che grazie, bellezza, grazie. Io sono davvero emozionato, mi perderei negli occhi blu suoi e sarei tutto A me dispiace che non ci siano queste dirette Facebook per farvi vedere gli occhi a cuoricino che ha il mulo in questo momento, mentre tu guarda e si rimira il suo camisetta. Abbiamo scoperto, insomma, di essere tanti geek. Geek, no, adesso? Otaku, per favore. Otaku, eh. Otaku. Sì. Adesso no, indigenous. Attenzione. Termine, che c'è la fissa per le etnie indigene. Ho scoperto. Ragazzi, indie, non è l'indie rock, ma è l'indie nerd. L'indie nerd. Insomma, Cami? Insomma, se arriva 6 ore, 12 ore di viaggio, 6 ore di fuso orario, jet lag. Come disse il head lag. No, devo dire che il tempo è stato clemente. Il tempo ha fatto davvero. Stiamo davvero così a parlare del tempo. No, più che altro te lo dico. Era così, è uguale adesso. Cioè, piovoso e iniziava a fare freddo lassù. Sono arrivato qui piovoso, ma sta smettendo di fare freddo, quindi almeno in questa cosa non ho notato alcuna differenza. Già, a parte il head lag, mi sono laggiù, anzi, al tropico dall'altra parte, cioè in Bolivia. Quant'è? Mi sembra intorno ai 12 gradi di latitudine. È stato un mesetto e mezzo. Quanto è stato? È stato 5 puntate almeno. 5? Forse 6. Abbiamo dovuto fare una puntata. Ecco perché mi sento ospite. Ci sta. Abbiamo dovuto fare una puntata in diretta da Gradia. Quindi per una settimana ci siamo traslocati via da Fritto. L'abbiamo pescato un mercoledì che era il 1° maggio. Quindi ha detto culo a tutti. Abbiamo avuto una marea di ospiti e siamo, ecco, non dico verso il finale di stagione, però questa è la volata finale. Quante ce ne sono? 4? A conti fatti, no, ne mancano ancora 6, 7, 8 di puntate, allora. Perché vorremmo andare avanti fino a metà luglio. Scusate, io stavo facendo una riunione della regia qua, chiedo scusa agli ascoltatori. Tira fuori il nerd che c'è in lui, perché assolutamente ha bisogno. Stiamo facendo delle statistiche. Il primo punto dell'ODG di questa riunione. Punto dell'ODG è il tuo bentornato e che souvenir ci porti? Souvenir sono tanti, perché ho portato tanto zucchero a pannella. Coca? 3 kg, qualche foglia di coca. Bravo, guarda l'occhiolino come vola, hai visto l'occhiolino? Le cose processate non mi piacciono, mi piacciono al naturale. E devo dire che mi piace tanto andare in Bolivia, principalmente per la seguente ragione. Due punti. Si va alle origini di tutti i problemi di cui parliamo qua, principalmente sfruttamento, falso mito del progresso, estrattivismo, rivolta popolare. Questi temi lì sono alla luce del sole, diciamo, sono tutti lì. È il minestrone di queste cose alle origini, quindi è un viaggio alla fine all'interno di queste problematiche, anche con uno sguardo verso le soluzioni, perché ovviamente c'è un paese che, come tutti gli altri limitrofi, da circa 4 secoli o più è stata sfruttata in tutti i modi, è ovvio che ci siano certi processi che sono più avanti di dove siamo noi, anche se lo sfruttamento è anch'esso devastante. Quindi non sei andato in Bolivia per un viaggio di puro e mero piacere? No, anzi, no. Il piacere poi c'è stato, perché c'è una grande famiglia là che mi accoglie, quindi c'è sempre il piacere. Però sono andato per lavorare, per raccogliere informazioni, per e fare il mio. Non è la prima volta? No, ma ogni anno ci vado dal 2012, la prima volta ci sono stato, più o meno sempre nelle stesse zone, quindi comincio, oltre che a imparare qualche termine basilare di Quechua quando vado a Cochabamba e di Guaraní quando vado nel Chaco, sono due etnie, due regioni, due popoli, due storie completamente diverse, a parte la lingua, insomma, comincio anche a portare avanti dei lavori a lungo termine, no, non il, no, quell'arrivo, il lavoro tocca, mordi e fuggi, ma lavori che vanno avanti piano piano e se ne vedono fatti i risultati. Ma con che grande lavoro soddisfazione. Fa, in questo terzo della mia vita, quando vado in che Bolivia, è fa, cooperante, diciamo, come termine il più riassuntivo possibile. Non mi piace tanto perché in questi decenni il termine cooperante ha anche subito connotazioni negative a seconda di poi di quali ONG, di quali organismi di cooperazione sono coinvolti. Io alla fine ho scelto la piccola cooperazione, piccoli lavori, cose insomma con le comunità, con le popolazioni, poco giro di soldi, però tante cose pratiche, tante assemblee, tante parole e anche ovviamente tanti fatti. Quindi ho trovato un po' questo equilibrio e devo dire che va bene così, ecco, no? Si riesce a arrivare lì con un'idea di lavoro e se ne viene via col lavoro completato e con già progetti per l'anno dopo, quindi... Ma questa nel è la mia concreto, parte. Cosa hai fatto in questo mese e mezzo? Ah, nel concreto, le prime 3 settimane sono arrivato lì come, diciamo, responsabile di una piccola onlus fiorentina, piccola ma neanche troppo perché ha molti progetti in Africa, si chiama Acquifera, fa solo progetti d'acqua, di raccolta, ricerca dell'acqua, estrazione, protezione delle aree di ricarica. Hai detto estrazione? Ho detto estrazione, sì, perché poi scopriremo che c'è anche l'estrazione buona, ci sono vari livelli estrattivi. Quando si parla di un'estrazione di piccola scala, quindi della quantità d'acqua necessaria a irrigare 12, 15, 20 campi di mais, ovviamente quello lì è uno sfruttamento, è uno scambio natura, uomo, uomo, natura, e ovviamente non c'è nessun tipo di ripercussione negativa, sicuramente non sulla popolazione e quantomeno sulla natura. Utilizzando materiali di là, sabbia, un po' di cemento, perché a me ancora va utilizzato, dei tubi e soprattutto tanto lavoro, manodopera e tante assemblee e riunioni per decidere come poi distribuire l'acqua, allora viene fuori un bel lavoretto, perché riesce a mettere in protezione una sorgente, come abbiamo fatto noi, fare una piccola camera di raccolta di circa un metro cubo e da lì convogliare l'acqua in una cisterna di 20.000 metri cubi, scusate, da cui poi i contadini, dividendosi un giorno a testa, cominciano a convogliare quest'acqua per l'irrigazione nei campi di mais, quindi riuscendo a evitare che i cambiamenti climatici, le siccità sempre più incombenti, gli brucino completamente la piantagione, il che a sua volta comporta l'emigrazione verso la città nel migliore dei casi o verso l'estero nei peggiori. Ma ti possiamo chiedere, cioè, di farci chiudere gli occhi e descriverci il paesaggio attorno? Allora, sì, non è nemmeno così scontato, cioè, la domanda da cui parto nella mia testa era: ma a che altitudine sei? Perché la Bolivia non è proprio piatta. No, la Bolivia si va dai 100 metri, 200 sul livello del mare fino ai 7500. Infatti, io ti colloco nel mio cuore a 7400, perché stai lassù. Però mi troveresti molto invecchiato e soprattutto bruciato. E lì il sole non perdona. Allora, le prime 3 settimane sempre stiamo parlando, perché poi ho fatto cose completamente diverse le 3 settimane dopo. Eravamo vicino a Cochabamba, che è una città 2004 circa, su una bella valle di una specie di altopiano, diciamo, che è all'interno del sistema della cordigliera delle Ande. E invece il progetto era 4 ore di strada sterrata da Cochabamba verso est, cioè andando verso Misca, verso Santa Cruz, quindi scendendo un po', ma poi le comunità arrivano fino a 3.000 metri d'altezza. Quindi stiamo parlando di un municipio che comprende una ventina di comunità indigene, e quando parlo di comunità o di villaggio intendo non San Polo in Chianti, non cose così, ma un insieme di piccole case sparse nel territorio rurale, a volte anche a qualche chilometro di distanza l'una dall'altra, in cui ovviamente è difficile creare un sistema d'accesso all'acqua che possa soddisfare tutta la comunità. Ci si deve pensare un attimo e soprattutto decidere bene come è poi la gestione. E quello ovviamente l'abbiamo lasciato in mano alla comunità, che si organizza attraverso delle assemblee settimanali e decide poi come dividersi il lavoro, chi metterà la mano d'opera, chi si occuperà della distribuzione dell'acqua la prima settimana, chi la seconda. Ma è una comunità un po' come la nostra? Assolutamente, Tristenza Contadina, Girona Rose e la comunità lì. Che con dinamiche di genere un po' più discutibili, probabilmente. Cioè, questo lo pigliamo lì ovviamente sono barriere di questo tipo, sui diritti soprattutto, no? Che noi arriviamo da qua con l'idea ovviamente che si debba mettere alla pari, no? Il lavoro dell'uomo, della donna, eccetera. Lì invece questo aspetto ovviamente è ancora molto indietro, però invece dal punto di vista dei diritti di base, case, salute, istruzione, acqua, loro si stanno muovendo proprio come facciamo noi, cioè si riuniscono, decidono su quali basi, fanno delle assemblee, vanno al comune, cioè il municipio, vanno dal sindaco e iniziano a rompere le palle dicendo: guarda, qui è vostra responsabilità darci accesso all'acqua, ovviamente non è responsabilità né delle ONG né di volontariato che arriva e ci mette due soldi, responsabilità del sindaco, del municipio, andare e garantire un accesso all'acqua che sia di qualità, di quantità, che possa arrivare a tutti e che possa soddisfare i bisogni non solo umani ma anche agricoli. Quindi un po' quello che abbiamo fatto in parallelo ovviamente al costruire insieme a loro dalla mattina alla sera, sporcandoci le mani, infangandoci, mangiando insieme in terra quello che avevano portato, mangiando foglie di coca, prendendoci per il culo sulle dimensioni dei sassi che prendevamo, ovviamente c'è tutta la parte in cui abbiamo un po' aiutati a capire dove non farsi fottere o da grandi organizzazioni internazionali o dal governo o dalle istituzioni, perché a volte quando si parla di diritto all'acqua per loro è solo qualità e quantità, invece ormai finalmente siamo arrivati a definire il diritto all'acqua come una cosa molto più complessa, che senza partecipazione non è possibile, che senza discriminazione non è possibile. Quindi a volte loro tendono a accettare un sistema d'acqua che gli porta qualità però non quantità, o che gli porta qualità e quantità ma senza renderli partecipi del lavoro, oppure discriminando chi non può arrivare ad accedere al punto in cui c'è la sorgente. Insomma, quindi aiutarli a capire dove fiutare la fregatura è già un primo passo per dargli almeno qualche strumento di difesa contro chi se ne approfitta. Sono comunità con poca educazione, con poca istruzione, quindi una cosa per dotarli degli strumenti che poi facciano loro, no? Che poi utilizzino loro per il diritto all'acqua, è uno questo, cioè andare a spiegarli. Ma quando parli di comunità, più o meno in termini numerici? Cioè, questa qui è a Wanyuma, dove abbiamo lavorato noi, insieme tra l'altro alla GSF, a Geologia Senza Frontiere, che ci tengo a dirlo perché quando mi sono iscritto a Geologia ho detto forse da grande lavorerò con per Geologia Senza Frontiere, una cosa tenerissima che alla fine è successo quasi a caso. Comunità vuol dire, ma qui si sta parlando di 30 famiglie circa, quindi 5-6 persone, sì, 150-200 persone. Esatto, quindi c'è anche un'esigenza immagino ampia. E poi una seconda domanda era questa, cioè sono comunità comunque predisposte a ricevere un aiuto da fuori, della comunità stessa, addirittura dall'altra parte del mondo, come sono riuscite a sviluppare questo? Non è un compromesso, è qualcosa di molto infinitamente più complesso. Comunque sia, immagino che non sia stato questo il primo incontro che ce l'hai detto, ma come nasce questa collaborazione al di là di Camicia o Geologia Senza Frontiere? Cioè, le comunità sono... Allora, la risposta è no, non sono predisposte, e meno male, aggiungerei, perché appunto ne hanno subite così tante, hanno subito così tanti tipi di sfruttamento, che quando negli anni 70-80 ha cominciato la cooperazione, quella pesante, si sono accorti che anche quello lì era un tipo di sfruttamento. Sto parlando di cattedrali nel deserto, sto parlando di pozzi che poi si rompe una bomba, la bomba è la batteria, diciamo la pompa con cui si rompe quella, è un casino, o un grande sistema d'acqua per migliaia di persone e quindi poi non ha problemi di gestione. In più ci si è messo il governo, anche direi giustamente secondo me, un po' paranoico nei confronti dell'ingerenza di grandi organizzazioni straniere, e quindi quando vai in queste comunità ci arrivi la prima volta ti guardano storto, nel senso quando arrivi dici: guarda, io posso portare un po' d'aiuto, un po' di cose, un po' di soldi, un po' di mano d'opera, per fortuna non sono lì subito a dire ah, che bello venite. È invece necessario un lavoro lunghissimo, lento, fatto all'80% di mangiare insieme, stare insieme, chiacchierare. Forse loro ti fanno domande, si sciolgono. La creazione della fiducia, che è quello che cerchiamo di fare anche noi come comunità riguardo a produttori, co-consumatori, eccetera, di conoscerci per creare fiducia. Sì, perché poi il prezzo da pagare lì è troppo alto se poi vieni tradito. E quindi noi ci siamo affezionati con Acquifera a questo progetto perché c'era un lavoro prima di un'organizzazione locale che da 15 anni che lavora in quelle valli, un'organizzazione di Cochabamba nata dopo la guerra dell'acqua di Cochabamba, di cui spero di parlare più lentamente, più con calma nelle prossime puntate, in cui dopo aver privatizzato l'acqua c'è stata una sommossa popolare, stiamo parlando di 10 anni fa, un po' di più, 15 anni fa, e da lì sono nate poi varie associazioni proprio di difesa di questi diritti di base delle popolazioni indigene limitrofe alla città grande di Cochabamba. Quindi questa associazione che si chiama Ainisuyu, che vuol dire territorio di reciprocità, cioè proprio un termine ora espresso in italiano non rende, però in quechua vuol dire proprio quel campo aperto dove scambi cose, un po' come il mercato, potrebbe essere un Ainisuyu. Loro hanno cominciato e ci credono tanto, hanno una forte impronta politica, non sono né partitici né, anzi sono molto critici sia nei confronti dei governi pre-indigenisti sia nei confronti del governo del MAS, cioè di Evo Morales. Stanno nei loro e lavorano sul territorio. Siamo riusciti a contattarli, anche loro all'inizio hanno voluto capire noi di che impronta fossimo, se fossimo della cooperazione selvaggia o di quella un po' più timida, hanno visto che eravamo di quella un po' più timida e attenta anche. E dopo un anno, dopo che siamo andati a trovarli, ci hanno portato a vedere le comunità, a fare le prime riunioni, abbiamo iniziato a scriverci, mandarci i report, mandarci le prime bozze di progetto e hanno capito che una parte sì era l'aspetto pratico, però che ci interessava tanto anche l'aspetto politico, quindi parlare del diritto all'acqua e soprattutto della protezione delle aree di ricarica, che è dove l'acqua cade nella terra e ricarica i fiumi o gli acquiferi, e riforestazione, cioè tutte quelle soluzioni a lungo termine che davvero fanno la differenza, perché te puoi farne un pozzo, puoi fare una raccolta d'acqua, ma ovviamente quella lì è una pastiglia, un antibiotico che ti può servire per qualche anno. Invece i lavori sono ben altri, importanti da fare. Cominciato nel 2016 con loro questo lavoro e piano piano, cioè quest'anno appunto nel 2019 siamo andati a fare il lavoro, quindi stiamo parlando di 3 anni, di 2 missioni l'anno, di anche un mese in cui ci alternavamo io e un altro ragazzo, Martino, di Acquifera, di Geologia Senza Frontiere. E allora hanno iniziato a sentire un legame anche loro più forte e di conseguenza anche a trasmetterlo alla comunità dove loro ormai sono molto integrati, perché sono il loro ponte verso l'esterno, ma in tanti modi. Oltre ai progetti sull'acqua, fanno orti familiari, progetti di cucine migliorate per evitare che le persone che cucinano vengano problematiche ai polmoni per il fumo. Fanno di tutto, però dopo aver definito davvero insieme agli abitanti dei villaggi le problematiche di base su cui lavorare. E poi fanno un lavoro politico incredibile, cioè fanno proprio lobby al municipio per far capire che c'è bisogno di alcuni provvedimenti. Ora è stata approvata, per dirtene una legge municipale che obbliga le scuole di questo municipio, stiamo parlando di una zona che potrebbe essere come il Mugello, con una ventina di comunità o villaggi, di quella quantità di persone vi dicevo, e un paesino, questo sì, come San Polo, diciamo, un po' più gremito di persone, dove c'è dalle due scuole principali. In queste scuole da ora sarà obbligatorio fornire la colazione e la mensa e il pranzo con cibi dei contadini di queste comunità, con l'alimentazione prodotta da questi contadini. Quindi sono piccoli esempi che non arrivano mai ai livelli di politica nazionale, però lì Morales ha dato un po' più di poteri alle varie municipalità indigene, non ancora abbastanza risorse economiche, però intanto questa libertà di azione ce l'hanno, e questa è una svolta incredibile, perché il contadino sa che ogni settimana la scuola gli compra le patate che ha fatto, quindi questo gli dà un po' di più di garanzia di sicurezza. Questa operazione qua è potentissima, nel senso che ricrei un legame fra il territorio che lo abita, ricrei un legame con la cultura magari del cibo. Sono esempi veramente interessanti, e se noi tre da questo lato del banco radio strizziamo i neuroni e proviamo a ricordare, abbiamo ricevuto un racconto simile dal Brasile, dal Movimento Sem Terra, in cui esiste, non ricordo se è più legge municipale, ahimè non ho prestato la necessaria attenzione, però in alcune aree, in alcune zone, la comunità Sem Terra fa lo stesso identico tipo di lavoro con, non so, gli asili e le scuole su tutto. Quindi proprio partendo dall'età in cui, ecco, non solo c'è uno sviluppo fisico dei bambini e delle bambine, ma anche crei i legami educativi e pedagogici anche nel rapporto con il cibo e la terra, ovviamente. Sì. E una cosa ci tengo a raccontarvela. Mi hanno detto i tecnici, diciamo, di questa organizzazione locale di Anisuyu, José mi ha detto prima di venire via, mi ha detto: guarda, prima che arrivaste voi, anche la nostra organizzazione pensava che la soluzione fosse fare un sistema d'acqua che garantisse l'acqua alla popolazione. Invece ora abbiamo capito anche noi l'importanza di andare oltre e di iniziare a spingere davvero per delle leggi per proteggere le zone dove quest'acqua nasce, tra virgolette. Esatto. Sì. È stato incredibile, perché da quando siamo arrivati, vabbè, noi abbiamo spinto tanto in questa direzione, cioè sì, veniamo a fare quello che c'è da fare, lo facciamo insieme, tutto quanto, però c'è da garantire delle cose, cioè convincere l'aiutamento, cioè il comune lì, che è importante, non si può continuare a deforestare le zone di ricarica, non si può continuare a lasciare che i pascoli di capre vadano in certe aree, facendo sì che poi non ricresce mai la vegetazione, perché te vedi tutto deforestato e ti immagini, i bambini ti dicono: ma qui è sempre stato così, e anche i ragazzi della mia età, che bambini non sono, solo gli anziani, i nonni si ricordano quando lì c'erano le foreste, che poi con tutta l'urbanizzazione, con la necessità di far carbone, di riscaldare, della legna per l'evoluzione della città di Cochabamba, per costruire proprio, è stato tutto completamente devastato, e ora nessuno più si ricorda com'era. Vedi solo delle isolette di alberi che qualche piccola comunità ha rimesso su, riforestando a pini, con pini, eucalipti, quindi anche male, perché gli eucalipti certamente non sono la soluzione. E invece adesso, a forza di parlare col sindaco, speriamo, forse stanno cominciando a parlare di definire quali sono queste aree di ricarica delle comunità e iniziare a un processo, quindi, di protezione di queste, e poi di riforestazione, speriamo prima possibile. Perché a proposito di ricordi sfalsati, poi mandiamo un pezzaccio. Settimana scorsa, al compleanno di un praticamente appartenente alla comunità di resistenza contadina Jérôme Larose, loro li compiva 60 anni, e c'era tutto questo dialogo molto interessante in cui lui si ricorda che era cittadino e che andava a trovare il suo amico campagnolo all'isolotto. 60 anni fa l'isolotto era campagna. E con questo mandiamo un pezzaccio. Scacco matto. De tu dolor diseminado. vista. Los Jaivas. Sì, mi risulta anche dalla scaletta interna che erano Los Gruppo Jaivas. Geniale, in realtà cileno. Assolutamente. L'avevamo notato, questa cileno, cosa che quello boliviano era quelli di prima che sono passati due o tre brani fa e questi fanno dagli anni 70 suonano fino a 5-6 anni fa, è un gruppo storico. Veramente dei compagni e suonano quello che si chiama folk progressive, cioè prendono il folk andino anche loro e lo ritrasformano con modo progressive, quindi progressive folk. Sì. Progressive folk. Scusa, posso ancora intervenire perché davvero abbiamo avviato una discussione via mail ormai, non è più un con una chat ormai. Sì, esatto, con distorti, sempre loro. Sì, con Snorky veramente. E quant'altri che davvero non solo ci ringraziano, davvero ricambiamo l'abbraccio che ci mandano e ci dicono e il termine è già stato coniato per identificare un nerd contadino ed è Ned Farmer. Lo vedi che c'è. Cosa un siamo? Per siamo tutto. Dei nerd farmer che anziché zappare il cavolo verza il mercoledì dopo il caffè vengono qui e sfarmano fuori questa magnifica trasmissione che vola libera come i gabbiani. Ma in Bolivia dove vai tu? Ci sono i nerd farmer? Non no? Ci sono solo i farmer. Non ci sono solo i farmer, non ci sono neanche i gabbiani. Stiamo seguendo sulle mappe il mare, digitali. Non hanno mai visto un gabbiano. Sì, seguiamo, ripeto, sulle mappe digitali è facilmente intuibile Cuevo, si scrive proprio come si legge, C-U-E-V-O, e qua era Camicia 10 sì. giorni fa. Esatto, perché dai 3000 metri, diciamo, per immaginare il viaggio, no? Dai 3000 metri, un po' brulli, di boschi, di pini, di conifere, scendiamo fino a... forse 500 metri, se quindi già un clima dire. Un gran dislivello, un clima molto più umido, stava smettendo di piovere, stava arrivando il freddo perché ora comincia l'inverno lì, che non è un freddissimo come qua ovviamente, ma insomma da giacchettina la sera. Ma anche perché qua dovrebbe essere come qua, c'è cioè un freddo come adesso, quindi comunque allora. Relativo e... Cuevo, con una popolazione stimata di circa 2317 persone, allora. Si situa nelle Ande della Bolivia. E che altre informazioni? Elevazione 3353 piedi, quindi 1022 metri sul livello okay. del mare. Ah, e... pensavo 1000. Vabbè, sì. Sembra di stare quasi comunque a livello del mare. Quando vai a gennaio lì c'è 40 gradi, muori. Per dire. Mazza. E a Cuevo siamo nel cuore invece di un'altra regione, il Chaco. Totalmente altra storia. Sono principalmente pianure, colline basse, un fiume grande che l'attraversa, il Parapetì, e poi una storia indigena diversa dai Quechua e dagli Aymara. Lì si sta parlando di popolazioni originalmente nomadi, provenienti forse dal Brasile. Abbiamo fatto una puntata su questo qualche mese fa, i Guarani. Ed è anche una popolazione sicuramente apertissima, con cui mi sento veramente a casa. Ma che vivono in situazioni in cui fino a 15 anni fa, potremmo dire, c'era ancora la schiavitù proprio come la intendiamo noi, nel senso che se tu contadino sbagliavi qualcosa, ti facevano fare il giro della piazza di Cuevo, per esempio lì, e ti frustavano, o ti facevano fare due giri della piazza frustati. Stiamo parlando di 15 anni fa, ragazzi. Quando è arrivato Evo Morales, una delle grandi cose che ha fatto ovviamente è stato con la riforma a... ha colpito duramente il patronato, cioè tutto quel sistema di dominazione dei padroni, dei terratenenti, dei latifondisti, diciamo così, e tutta la popolazione indigena guaraní non si ribellava, gli costava troppo in termini di vita proprio ribellarsi. E adesso invece, insomma, cominciano a essere davvero padroni del loro destino, del loro sistema scolastico, sanitario, eccetera, grazie all'organizzazione dell'assemblea guaraní, e continuano però a vivere una situazione di estrattivismo totale, cioè, essendo una regione piena di gas naturale, il potere quasi totalmente in mano alla Total e ai latifondi di soia, che tra i più grandi del mondo. Ti parlo di ore e ore ho attraversato in macchina dei campi di soia, con questi cartelli enormi pubblicitari della Monsanto, di altre ditte di chimici che esortano a usare i chimici. Adesso va molto l'urea, arrivi all'aeroporto e tutto urea, urea, urea, buttate urea ovunque. E ci sono i cartelli, tu arrivi a Santa Cruz della Sierra, all'aeroporto, e nel tunnel che dall'aereo ti porta all'aeroporto, cioè tutti i poster con gli ingegneri col caschetto che estraggono il gas, con dietro vedi le trivelle, con scritto Bolivia cresce, stiamo per avviare un nuovo ciclo di estrazione, così usciremo dalla povertà. Quindi ora non c'è il tempo e il modo, ma spero forse la prossima settimana proprio di andare un po' più a fondo su queste tematiche, perché li vedi esattamente come è il pressing mentale a livello di popolazione da un governo che comunque è socialista e comunque si diceva anticapitalista, come però sta continuando a convincere la popolazione che lo sfruttamento della natura è per il loro bene, che la natura è una merce, che sono tutte delle miniere di d'oro, d'acqua, cioè d'oro blu, l'acqua, d'oro verde, la soia. Tutto ancora usano questi paragoni che risalgono, ragazzi, al 1500. Che colore ha il gas, per definire? L'oro, no, lo chiamano sempre oro nero, oro gris. Oro gris. Secondo, oro, sì, oro grigio. E l'oro giallo mi sembra anche ora il mais, queste cose qui, perché l'oro veramente giallo non c'è quasi più in Bolivia. Quindi sei andando da Santa Cruz verso sud, appunto verso Camiri, verso Cuevo, sai che stai attraversando due punti completamente in mano in realtà al potere estrattivista, un po' del nazionale, ma molto anche poi in mano agli stranieri, perché poi lì non processano nulla, ovviamente devono mandare tutto all'estero, non c'è un'industria o nessun sistema di trasformazione, c'è solo l'estrazione, cioè 100% estrazione, e il 90% di questo 100% viene esportato. Sono riusciti con Morales, almeno il gas, a farlo restare un po' nel territorio del Chaco, è uno tra i posti in cui costa meno, penso 5-10 centesimi al litro o al chilo, non mi ricordo come si misura il gas naturale. Comunque nulla, ovviamente, perché sono riusciti a togliere un po' di... No? Prima lo estraevano, lo mandavano tutto fuori... Però continuano a fare programmi sociali di compensazione, si chiamano. Quindi ti arriva l'impresa nazionale del gas o la Total e ti dice: adesso vi facciamo la strada, l'acquedotto, la scuola, e con questo siete a posto, non protestate perché vi abbiamo portato via centinaia di ettari. Come ha preso perché... Brasile, sì, insomma, sì, è uno sistema ormai veramente che funziona veramente bene, è difficile uscirne, a meno che proprio la popolazione non si renda conto che il prezzo da pagare poi a lungo, medio e lungo termine è molto più alto di questa compensazione fantomatica. Quindi quello è un viaggio alle origini, diciamo, del problema. E ti rendi conto quindi di tutte le sue evoluzioni, ma ovviamente non ne parlo adesso. E a Cuevo a pochi chilometri da Cuevo c'è una missione francescana nel 1700-1800 che adesso è abbandonata, è stata presa in gestione dalla comunità di Santa Rosa, che ci ha fatto una scuola di musica, grazie anche, insomma, anche aiuti di qua, italiani, a Mimmo Roselli, al convegno di salute, a tanti enti e anche persone singole che si sono presi molto a cuore il fatto di aver scoperto che i guaraní sono essenzialmente un popolo di artisti, sia musicale, te vedi dei tessuti, la musica, il canto, il ballo, è incredibile. Non sono nomadi, però ora che stanno facendo il mais non fanno più neanche quello per cui erano portati a fare, quindi prima erano nomadi, quindi erano principalmente cacciatori, raccoglitori. Poi si sono stanziati, hanno iniziato a coltivare mais, poi l'hanno presa da tutti perché le guerre per il gas lì li hanno decimati, poi il morbillo negli anni 70, ma insomma di tutto. E adesso, piano piano, con centri di salute decentrati in tutte le comunità, scuole appunto di salute, scuole di cultura, la lingua guaraní che viene riproposta come patrimonio culturale indigeno, stanno cominciando insomma a uscirne. Sicuramente rispetto a 30 anni fa sono già in un'altra situazione. E quindi a Santa Rosa questa scuola di musica è stata per loro un'occasione davvero per raffermare, utilizzando strumenti musicali anche europei come il violino, il violoncello, che erano stati portati lì da missionari nel 1007. Adesso cominciano a riappropriarsi anche e a mescolare, a fondere la musica indigena con la musica barocca, la musica classica, a fondere cose bellissime. E c'era il Festival di Musica, di Arte e Musica del Chaco, del 2019, ce n'è stata una 2 anni fa e una 3 anni fa, quindi era la terza edizione, e c'era un po' da coordinare i ragazzi per farli suonare insieme dei brani musicali. Quindi sono andato lì per questo aspetto artistico questa volta. Però comunque contemporaneamente con un occhio, 2 occhi aperti verso la situazione veramente sociale, economica, e mi sono addentrato molto con tutte queste dinamiche. Camicia informissima. Comunque. Formissima. E tra l'altro multitasking, non si deve così, dall'acqua alla musica, altro, tutto lo stesso. Quest'acqua qua, come diceva Bersani. Salutiamo, ciao Pierluigi. Grande, o Samuele, no, capito, piccone in una mano e tastiera nell'altra, ma non la tastiera dei nerd, quella ce l'aveva tracolla dietro, cioè c'è la tastiera musicale. Sì, sono due cose anche molto incompatibili in realtà. Incredibile. Il polso faceva male dopo aver lavorato a Cochabamba, però per fortuna non devo fare un concerto di classica al piano, dovevo solo dirigere i ragazzi. Quello lo potresti fare più tardi, o meglio, potresti magari più tardi lasciarci con la chicca. Ti canto una canzone. Che ci dici? In chiusura. Per chiudere, mi piacerebbe affrontare queste tematiche in modo più specifico, magari appunto facendo un po' la discussione, invitando tutte le signorine e signorini a ascoltarci mercoledì 5 giugno. Abbiamo approvato, è approvata all'unanimità. Uno arriva così da cazzo stiamo fanno. Cioè, capito, questo qua appena tornato. Mercoledì 5 giugno a Frittole, Radio Contato 13:59, parliamo di estrattivismo in Bolivia. C'è ancora l'etichetta della Ryanair appiccicata addosso, questo è l'ascella. Ma davvero, guarda. Noi volevamo fare tutt'altro, però c'era la puntata sull'Atalanta in Champions League settimana prossima, e c'era qua Gasperini. Sarà bellissimo. Sono troppo lanciato. C'era anche Manuel Agnelli che stavo in contatto, mi stava di sì. Al massimo facciamo un'ora. Io non sono atterrato, sono paracadutato direttamente. È ancora in modalità aereo. Cosa gli rispondiamo a sto ragazzo? Ma è ovvio che sì, perché noi delle tue energie ci nutriamo come l'edera. Che si appiccica al tronco dell'olivo e ne tira fuori le energie vitali, proprio come. E noi ho proprio voglia di raccontarvi quello che ho scoperto, capito? Noi abbiamo tantissima voglia di ascoltarti, soprattutto di non preparare nulla per la settimana prossima, perché. Quindi ti gestisci te 2 ore. A posto, andata, possiamo salutare tutti, grazie. Faccio il caffè che la dama ci canti una canzone in brasiliano e Drio si mette con le alla regia. Che Dio, io vorrei portarmi finalmente la poltrona tanto ambita, metterla qui e parlare direttamente così dal microfono mobile. Se ti porto il microfono ad archetto così non devi nemmeno a reggerlo. Bellissimo, eh? Madonna. Dai, buttaci un pezzaccio, Drio, che andiamo verso la rassegna eventi. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anime ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anime ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. tutto quello che possiedi ti possiede. Per questo metto mine sotto i ponti e faccio buchi nella rete. Mando all'aria piani di chi ci vuole nati morti, perché questa è una guerra agli umani, ma non ve ne siete accorti. Ai ferri corti con il circostante in più, resto io contro tutto il resto che mi butta giù. E tu ormai manco più rispondi, ti fottono con quello che mangi, quello che compri, l'aria che respiri, il tempo che ti levano. Le mie speranze sono in alto mare e lentamente annegano. Mi fregano la vita a colpi di diossia, e tanto come sempre poi la colpa resta mia. Fanculo sia la polizia, ma fanculo pure a te se poi ti bevi ogni singola bugia che sponsorizzano. Hanno in appalto il tuo domani, e tu che fai? Questa è una guerra agli umani. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anime ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anime ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Chi te manna? Lo speaker parla molto, ma il suo volto non lo vedi che parla. Sei proprio in gamba, sei il primo ma non puoi cambiarla. E mentre tu festeggi tutto crolla se cerchi di afferrarla. Sto mezzo passo avanti, ma vedo coi tuoi occhi e vedo quanti. Società crack, no, spiri no, santi. Abbiamo calli sulle mani, siamo tanti, zero vincenti. La testa dura e armata da far paura, la morte della fantasia fra quattro mura. Mi chiedo ancora quanto dura, mi chiedo se la gente non lo sa. Io sto guardando nella serratura, non ho la formula o la cura. È l'uomo che fotte se stesso, del resto tutto muore, rinasce come la natura. E questa è guerra agli umani, e come polvere da sparo ci consuma. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anime ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anime ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Ho visto i genitori nel boom del commercio mondiale, con i figli nel boom del terrorismo globale. Scende in strada a protestare contro il loro stesso stile di vivere, comprare e consumare. E poi crepare, si mette male, è tutto programmato. Un altro dato per l'ennesima ricerca di mercato. Io sto barricato per difendermi il domani, quando avranno già dichiarato un'altra guerra. Un'altra guerra agli umani, signori degli anelli di fumo, maestri dell'essere nessuno, campioni del consumo senza fare rumore. Si fottono tra loro nel balletto del colletto bianco in do minore. Ho un'idea per ogni tuo milione, mille sfumature, ogni tuo colore. Apro gli occhi e pure il cuore, e se nulla vuole comandare con suoi piani, resto refrattario in questa guerra agli umani. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anime ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. Guerra agli umani, cervello in metastasi, anime ghiaccio, ma non basta qui. Non puoi cambiare il mondo, ma la tua vita sì, per cui svegliati, zio, svegliati. No man is safe from. There's a war going on outside. There's a war going on outside. No man is safe from. Anche oggi siamo giunti alla conclusione di questa super puntatona epica, ricordiamo, epica. Invitiamo tutte le passeggere, tutti i passeggeri del biplano a biodiesel di Radio Contado a allacciare le cinture. Stiamo per atterrare alla fine di questa magnifica puntata numero 32, 33, non mi ricordo nemmeno io. 33 forse. E questa, care mie, le mie orecchie che ci stanno ascoltando, è la sigla della rassegna eventi, giusto? Giusto, Drio? Drio, yes. Sei sul... Oh, meno male, perché mi si distrae oggi, Drio. Allora, 20, oggi vai, è il 29 maggio e facciamo di nuovo gli auguri a Valentina, che compiva gli anni e ricompierà ancora auguri, fino a mezzanotte. Vale. Dopodiché venerdì è il 30 e ci sarà come al solito il mercato in Piazza Tasso. Dopodiché tutti quanti l'abbiamo sentito, ce l'hanno introdotto per più di un'ora, ne abbiamo parlato e chiacchierato a lungo, tutti quanti invitati al Next Emerson, dove inizia l'Hack Meeting, che durerà fino alla domenica, quindi tutti i pasti li troverete lì, tutti i laboratori li troverete lì, venite numerose e numerosi. Chi non avesse niente da fare, oppure non gli piacesse l'Hack Meeting come concetto, ma volesse qualcosa di più, come dire, terra terra, c'è anche un altro simpatico appuntamento. A Firenze esiste, e lo sapete meglio di me, un'occupazione, un'ex occupazione che si chiama Cecco in Rivolta. Mamma mia, queste schitarrate qua, proprio brividi, chissà chi è che suona una chitarra dietro di me, a merda. Dicevo, al Cecco in Rivolta inizia il consueto, abitudinale e abitudinario torneo di calci dal basso. Inizierà appunto il 1° di giugno, quindi vi invitiamo per tutti i fine settimana da qui alla fine di giugno a essere presenti. Dopodiché, dopo il mercato di tasso venerdì, c'è quello di agricoltura. Martedì. Esattamente. Già anticipiamo come ultimo evento che inizieremo a parlare un po' più approfonditamente del 5° compleanno di Mondeggi, 5° compleanno a cui già vi invitano i ragazzi e le ragazze della comunità, e già sappiamo da oggi che sarà l'ultimo fine settimana di giugno, il 28-30. Sono stato rapido, rapidissimo. Eh sì, perché io adesso abbiamo fretta perché? Perché c'è una, perché io surprise. Mollo il mio bellissimo microfono, lo cedo stravolentieri a questa chitarra sudamericana che abbiamo invitato qua apposta, un ospite speciale. Speciale, quindi davvero lascio volentieri un la poltrona. Musico. Ciao. Famosissimo in tutto il Sud America. E camisetta per voi in diretta da qui. Vai. Oh. Damita, quando passa adesso la sera, sì, per favore. Vi salutiamo così quest'oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Mandiamo un abbraccio gigantesco ai studi di Frittole con questo pezzaccio dal vivo. Un abbraccio da mulo, Allora. Ciao dal dottorio! Ciao dalla dama! La polizia te sta estorsionando il dinero, però io svivendelo che tu sta spagando, e si te trattan come un delinquente ladrone, è tu colpa, dale grazie a esa regente che arrancare il problema de raíz, di cambiare il governo de nuestro país, e cambiate che sta la burocrazia a esa gente che le gustan las migajas, por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo, el que no watcha su posta del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque a nadie le interesa, es la gente que arriba y te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger, porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos maneja el mal, dame todo el power para que tenemos en la madre, give me todo el poder, so I can come around to joder, dame todo el power para que demos en la madre, give me todo el poder, so I can come around to joder, dame todo el poder, dame todo el power, dame todo el poder, dame todo, así es, puto. ¡Todo junto, hermano! Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones. ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! ¡Que se sienta el power mexicano! ¡Que se sienta todo junto como hermanos! Como somos más, jalamos más parejo, porque está siguiendo a una bola de pendejos que no llevan por donde les conviene. Es nuestro sudor lo que nos mantiene, los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame todo el power para que tenemos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to joder. Dame todo el power para que tenemos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to joder. El pueblo unido jamás será vencido. El Tido y Guido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el Tito, el Huido, jamás será vencido.